entrate in scena per questo 2 febbraio, ovviamente venerdì, vigilia di weekend, e troviamo un'intersezione, come ho già detto più volte, con Art City, che è arrivata nel weekend e nel vivo, e dall'1 al 4 febbraio, quindi già in scena, Cimitero Monumentale della Certosa, per me deposito della memoria, e il DAS, dispositivo arti sperimentali, presenterà The Last Lamentation. È un video ispirato alle lamentazioni funebri nel Mediterraneo, sarà proiettato nella sala delle catacombe della Certosa di Bologna ed è in collaborazione con il Museo del Risorgimento e il Mambo. Le fasi di lavoro verranno presentati negli stessi giorni presso il DAS, che ho detto l'acronimo, dispositivo arti sperimentali, all'interno della mostra collettiva Dentro, a cura di Anna De Manicor, Lella Marcoianni e Maria Paola Zedda. Il progetto artistico è di Valentina Mezza e per quanto riguarda questa anticipazione, la nostra Viola Balugani, che ringrazio, ha avuto modo di sentire queste due voci per saperne di più e per dare un'anticipazione di quello che avremo nel deposito della memoria della Certosa con The Last Lamentation. Direi di iniziare con questo nostro viaggio, che ha qualcosa di oltre, sia per in scena e per quanto riguarda anche quello che è un palcoscenico legato all'arte e Art City. Sentiamo quindi Valentina Mezza. All'interno di DAS, dispositivo arti sperimentali, questa è una sala che racconta i processi generativi del lavoro che The Last Lamentation di Valentina Mezza, che sarà presentato al Cimitero Monumentale della Certosa dal 1 al 3 febbraio, realizzato grazie al sostegno del Bando Italian Council della Direzione Generale Creatività Contemporanea nel 2022, che presentiamo qui in questo contesto di Art City in prima assoluta. L'opera sarà destinata alla collezione del Museo Mambo e abbiamo deciso di raccontare un po' i processi del lavoro, quindi un lavoro che Valentina ha iniziato già come fase di ricerca nel 2019, ha proseguito con prima Beirut e poi come indagine di lavoro e di studio sul tema delle lamentazioni funebri in Sardegna, con dei processi partecipativi, con il recupero di una tradizione quasi estinta che è quella del pianto rituale, oramai concepita e trasmessa a pochissime donne perché è motivo anche di stigma sociale, anche Valentina dedica al Mediterraneo con una riflessione legata al corpo, al Mediterraneo inteso quindi come spazio liquido di transizione, di sospensione e di assenza. Da qui ovviamente i rimandi sono tantissimi, le diaspore del Mediterraneo, ma anche una riflessione sul femminismo, su che cosa significa oggi un corpo ibrido e quali legami attraversano le relazioni tra vivente e non vivente. È un lavoro che vede la partecipazione di 12 donne realizzate in Sardegna. Il video è un lavoro in sé che ha anche un risvolto performativo, è una produzione che però proseguiremo nell'anno prossimo. Vede la collaborazione di Gaspare San Martano come musicista, Claudia Ciceroni come compositrice, in particolare ha curato la parte vocalica, ed è stato realizzato nel sud delle coste della Sardegna con questo sguardo verso il mare. Traduce quindi attraverso una partitura di gesti e di voci i respiri, in realtà che sono dei respiri che diventano pianto, che via via si assorbono, questo pianto, questo suono viene assorbito nel suono del mare, come se diventasse quasi una voce in sé, una voce corale che si trasmuta da materia a materia. La durata è 12 minuti, per noi il Cimitero Monumentale acquisì un'importante relazione ovviamente con il tema. La sala delle catacombe è un luogo comunque di deposizione, in questo desiderio di deporre finalmente un rito verso un cadavere, sembrava un po' un luogo metonimicamente molto connesso. Abbiamo pensato di installare i lavori anche in un ordine che un po' ripercorre quella che è stata la creazione fino al video in Certosa, che è il punto finale. Finissimo studio che va nel 2018, in realtà a Beirut. Nel 2018, quando ho cominciato ad avere l'idea del lavoro e mi hanno ospitato in residenza al Beirut Art Residency, che oggi non esiste più, dove ho lavorato con delle donne del luogo, 7 donne, alcune insomma di varia, alcune siriane, palestinesi, insomma è stato molto bello anche come lavoro sul territorio, e quello è stato un po' proprio l'incipit anche visivo, gestuale dell'impianto del lavoro. Mm-hmm. L'effimero nell'agrodolce, nella allegrezza che è questo mix, nella bossa nova di Sean Lee, Happiness is a Drug, la felicità è una droga, e con questo lavoro che ci porta su un palcoscenico assolutamente dove la microsensazione diventa non solo una comunicazione fortissima per una sensibilità che va oltre. Il video è ispirato alle lamentazioni nel Mediterraneo e sarà proiettato, come ho detto, nella sala delle catacombe alla Certosa di Bologna. È la collaborazione con il Mambo, ricordo che sì, è il palcoscenico, siamo in scena, ma è anche un motivo di Art City che entra nel vivo e in questo weekend. Nelle parole di Maria Paola Zedda, curatrice del progetto, lontano dalla documentazione, dalla performance, come in un lavoro di narrazione, l'opera video è un racconto che è astratto, dove la relazione tra corpo, pathos, paesaggio si stratifica per sistemi di assenza e di presenza. Continuiamo quindi a dare un approfondimento a The Last Lamentation, e con le due voci, Valentina Medda, rispettivamente progetto artistico, e la curatela di Maria Paola Zedda, avremo modo di conoscere oltre per quanto riguarda The Last Lamentation. Poi abbiamo deciso di mettere tre piccole polaroid che sono sul mare, quindi cominciando tornata da Beirut, ho cominciato a fare tutta questa riflessione che già chiaramente era dietro il video di Beirut, no? Come diceva Maria Paola, del mare come assenza, del mare come corpo e come cadavere, quindi un corpo liquido che ha superato i confini ed è una linea di ricerca di tutto il mio lavoro, questo dove finisce il corpo e dove inizia il resto, e cos'è questo resto e che forme ha il corpo e che forme invece prende lo spazio quando si incarna. E quindi tutta una serie di studi sull'acqua, di cui c'è tre piccolissime polaroid, chiaramente tutti i riferimenti miei, che quindi non dovevano essere per forza di cose troppo evidenti, troppo didascalici. Per tornare in Italia poi ho cominciato appunto a lavorare con gli studi della tradizione, le varie forme che il pianto rituale prende in Italia e ha preso in realtà anche dai tempi antichi dell'Egitto. C'era l'idea, chiaramente, nel momento in cui il corpo viene concepito come un cadavere, c'era l'idea per me di fare un funerale a questo cadavere, quindi non dovermi approcciare a un tipo di rituale funebre. Il rituale della tradizione delle prefiche è quello che unisce tutto il bacino del Mediterraneo. Indagando vari studi eccetera, sono incappata chiaramente in Stendalì, di Cecilia Mangini, che parla delle Chiangi Murti in Puglia. Le Chiangi Murti usano i fazzoletti, così come nella tarantella, anche nel rito funebre, quindi usano questi fazzoletti sopra il cadavere mentre intonano delle litanie. Quindi ho cominciato a realizzare dei fazzoletti che avessero la forma delle mani e fossero bloccati nel movimento, immaginando che poi da lì diventassero degli elementi strumenti che possono in qualche modo prendere il volo, e si rifanno poi quello che vedrete nel video in Certosa, che è questo movimento della gonna che hanno le performer, che sollevato sulla testa diventano quasi due grandissime ali. Per cui diciamo che questo è stato un po' l'elemento che mi ha fatto poi visivamente sviluppare quel gesto che c'è nella performance, che è un gesto importante. Il costume è un prop, come si suol dire, no? Cioè è un elemento drammaturgico, e questa appunto è stata una parte del processo. Nel momento in cui stavo lavorando questa cosa qua, ho realizzato una serie di bozzetti che potessero dare l'idea un po' della spazialità delle donne rispetto al mare, queste donne appunto vestite a lutto, e nel frattempo si è infilato l'Italian Council, quindi ho cominciato a lavorare su un quaderno di una sorta di storyboard, no? Di una serie di possibili scene, cosa succede, le donne arrivano, si posizionano, portano ognuna un suono fino a creare una sorta di litania. E quindi questi sono già due elementi che sono per noi un po' più, come dire, formali, nel senso un collage che è già un'opera finita a sé, anche se costruita durante il processo, lo storyboard, e poi qui ho realizzato un paio di fazzoletti in ceramica. Per cui questo elemento del fazzoletto sono andata a lavorarlo con una ceramista, perché questo è veramente... C'era veramente il fazzoletto dentro, il bevuto di ceramica, che poi nel forno ha lasciato un vuoto concettuale. E quindi, ecco, quindi questo diciamo che arriva a essere poi un po' il punto finale della... uno dei punti finali che poi ci portano in Certosa, ovviamente sempre per noi, essendo questo un percorso verso... Dal disco Bangalore, EYM Trio con Al Plauto, il featuring di Varyasher Venugopal, che abbiamo ascoltato e visto venerdì scorso al Torrione, che portiamo a termine questa presentazione The Last Lamentation, cimitero monumentale della Certosa, una consapevolezza di passaggio, ed è fondamentale questa consapevolezza, conoscere, sentire, anche vivere, non è un ossimoro, anche vivere quelle che sono delle spoglie che non contengono più un'essenza perché è andata altrove. Poi certo rimane tutto, rimane un'immensità, però è dentro di noi e altrove. Ecco, questi passaggi, questi momenti nel congedo per salutare chi va dall'altra sponda del fiume sono fondamentali proprio per la consapevolezza. Parola di uno che nei depositi della memoria ne ha vissute di ogni, Questo io ogni tanto lo do edulcorato, no? Dico sì, perché è stato l'Ateneo che, nonostante la mia sissifea ignoranza, ha portato un attimo di conoscenza, di curiosità nella letteratura, nelle epigrafi, in tutto ciò che può essere architettura. Ne ho visitati, ho lavorato in diversi posti in tutta Italia, e quindi ho portato questi docenti silenziosi che bisogna saper ascoltare. Adesso è il momento anche di parlare del passaggio all'altra sponda, appunto, come si dice, no? Ecco, e per chi invece rimane al di qua, questa consapevolezza di le cosiddette spoglie mortali, che certo, come ben sapete, io ne ho un culto, però restano comunque spoglie mortali dove l'essenza è trasmigrata, ed è una concretezza tutto ciò che è fondamentale per avere una sensibilità forte e nel saperne, nel ricordo e, come ho detto, nell'altra sponda, cioè nell'altrove. Tutto questo un forte contributo a questa sensibilità, un lavoro come The Last Lamentation indubbiamente può portarne in rappresentazione artistica ispirata all'interno di Art City. Io con questo termino questa parte in scena e ci risentiamo tra pochissimo, perché, come ben sapete, ovviamente non finisce qui.